Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Vittorie, medaglie, sconfitte, trionfi. Lo sapete bene, sono le storie che spesso raccontiamo qui a Olimpia, ma non di sole medaglie, vittorie, trionfi e sconfitte. Vive lo sport e vivono i campioni che lo fanno grande. E infatti quella che vi raccontiamo oggi non è una storia di podi o di record, ma una storia in cui lo sport, in particolare la corsa, diventano un vero e proprio percorso di riscoperta di se stessi e anche di individuazione di un sentiero di condivisione. È per questo che oggi a Olimpia ho il piacere di avere ospite Roberto Andreoli. Roberto, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi dell'invito, grazie mille. Allora Roberto, sei reduce da un'avventura straordinaria, 104 chilometri più 2, e fra poco spiegheremo perché quei due forse sono i più importanti, nel deserto della Namibia, temperature assurde, sforzo fisico notevole, ma è davvero una sfida clamorosa, eh? Sì, sì, diciamo che sono tornato da pochi giorni, la prima settimana di dicembre si è svolta la 100 km del Namib Desert, che è una gara di 104 km più 2, come, perché c'è un significato, no, profondo dietro, nel deserto della Namibia, che è il deserto più arido e più vecchio di tutto il mondo, è datato di 40 milioni di anni e non piove praticamente mai, quindi le temperature erano alte, abbiamo raggiunto fino ai 61 gradi un giorno durante un pezzo della corsa. Sì. Beh, insomma, non è poco, ma per paradosso la performance che hai realizzato passa quasi in secondo piano. Perché? Perché questo è un percorso, come dicevamo, che ti ha portato lì in Namibia e che arriva da lontano, no? Parte il 18 febbraio del 2010, vero? Sì, Il 18 febbraio del 2010 il mio secondo figlio Pietro è morto dopo una serie di operazioni a causa di una malformazione arterovenosa, che è una malattia un po' nel cervello che aveva dalla nascita, che non si era scoperto nel momento della nascita, e niente, purtroppo ci ha lasciato all'età di 6 anni, e questo è il motivo per cui ai 104 chilometri della gara ufficiale poi ho aggiunto, no, altri 2 chilometri per arrivare a 106, per avere quel numero all'interno dei chilometri finali. Quindi purtroppo la storia è iniziata lì e poi, vabbè, è una storia comunque non felice sicuramente rispetto a tutte le sfortune che uno può avere nella vita, probabilmente questa è la peggiore, no? Però è un qualcosa che poi mi ha portato, oltre a un po' a rivoluzionare la mia vita, no? Perché poi io pesavo 115 kg, prima ho perso 40 kg, ho smesso di fumare, ho iniziato a correre. Ha portato poi a tradurre, no, questa negatività in un qualcosa di positivo per aiutare poi altri bambini. Da quel momento drammatico è iniziato un percorso di introspezione che poi ti ha portato alla scoperta della corsa, no, come accennavi. Sì, esatto. Diciamo che prima di tutto è importante, non è solo qualcosa, diciamo così, di introspettivo, ma è sicuramente un qualcosa che è potuto accadere prima di tutto per la famiglia, no? Perché comunque le persone che ti stanno vicini è importante, la moglie, i figli, gli altri due che poi sono arrivati, quindi loro sono fondamentali. È chiaro che poi io ho cominciato a correre per poi anche una necessità fisica, no? Di prendere appunto un po' di peso, diciamo così, quei 40 kg in più che effettivamente erano troppi soprattutto per correre, e poi mi ha, diciamo così, insegnato tanto, perché la corsa è comunque uno di quegli sport molto individuali, molto comunque che ti portano a riflettere, a pensare, a far fatica. E la corsa molto spesso, come dico sempre, è un po' la metafora della vita, no? Perché comunque tu in ogni gara come questa che ho fatto tu parti carico, no? Parti dicendo: guarda, io magari non vincerò, però farò una prestazione incredibile. Poi durante la prestazione hai dei problemi, hai delle difficoltà. Mi ricordo le prime maratone, no? Quindi cominci a avere delle piccole difficoltà e poi devi reagire, e questo è un po' quello che accade tutti i giorni, no, nella vita, e probabilmente, come è accaduto a me, in modo un po' più, diciamo così, estremo, è quello che mi è successo. Quindi anche un messaggio importante che vorrei dare è reagire a comunque a delle cose che sembrano insommortabili, c'è la possibilità, assolutamente. Io lo vorrei dimostrare un po', forse l'ho dimostrato con questa gara. Beh, direi proprio di sì. Senti, so che hai avuto anche degli accompagnatori e anche degli allenatori d'eccezione, no? In questa preparazione, non solo della sfida in Namibia, ma verso l'avvicinamento alla corsa. Mi viene in mente un'amica di Olimpia come Katia Figgini. Sì, Katia, non avendo mai, diciamo così, corso in un deserto, il primo mio dubbio, no, era come faccio ad affrontare la sabbia, come faccio ad affrontare il caldo, e tutta una serie di cose che comunque è chiaro che in quel contesto erano importanti da capire. Quindi ho contattato Katia, ci siamo conosciuti e mi ha aiutato assolutamente nella preparazione, mi è stata vicina con le classiche tabelle di allenamento, ma soprattutto, diciamo così, mi è stata vicina con i consigli su idratarmi, che cosa fare, perché comunque è una corsa leggermente diversa, no, da quella con cui siamo abituati, almeno io qua Brianzolo, no? È un po' qualcosa di diverso, esatto. Ritorniamo per qualche istante in quel deserto della Namibia. Com'era strutturata questa gara? Ho visto che c'erano delle tappe quotidiane, non lunghissime, perché chiaramente non lunghissimi tragitti, ma immagino davvero severi, come ci dicevi. Sì, diciamo che in tre giorni, in tre giornate ci sono state diverse tappe, quindi in tutto erano quattro, da 15 chilometri, diciamo la tappa da 15 chilometri era una tappa introduttiva nell'orario del tramonto, quindi tra l'altro sì, il caldo della giornata, però comunque abbastanza, diciamo così, un po' più fresco, no, rispetto al mezzogiorno quando ho finito la tappa maratona. Una seconda giornata che si passava poi, cioè la mattina dopo subito, che si passava all'interno del canyon del Cesarion, che è bellissimo, una zona incredibile di 21 chilometri, e successivamente poi la maratona, che è stata la tappa più difficile, quindi una 42 chilometri, veramente dura, anche perché comunque lì ti rendi conto intanto del caldo, perché comunque c'erano, abbiamo iniziato a correre alle 5.30 del mattino, ma poi siamo arrivati a una temperatura che, appunto, diceva alla fine, quando ho tagliato il traguardo, era a 61 gradi. Ma poi effettivamente ti rendi conto quanto siamo piccoli, quanto siamo effettivamente soli, no, in questo ambiente, perché è gigantesco, è un posto dove non c'è nulla, è un posto dove c'è un silenzio incredibile, senti solo i tuoi passi, è un posto dove tu riesci a guardare a 5, 6, 7, 8 chilometri di distanza e vedi gli oggetti come se fossero lì vicino a te, quindi perdi proprio la cognizione di quella che è la distanza, no? E poi si è arrivata all'ultima giornata per arrivare a 104 chilometri, ma ci sono stati quei due che dovevi percorrere da solo, ma non è stato così, no? Sì, diciamo l'ultima tappa era di 26 chilometri ufficialmente, una tappa incredibile, perché parte dalla Duna 45, che probabilmente, se voi cercate su qualsiasi motore di ricerca il nome deserto Namibia, è la duna, l'immagine che tipicamente è la più fotografata, che è una duna dove i turisti vanno, anche perché è molto vicina alla strada, no? Quindi è molto, molto semplice raggiungerla. Si è partita dalla Duna 45, abbiamo fatto 15 chilometri di dritti in questo deserto per poi iniziare un percorso importante di sabbia all'interno delle grandi dune del deserto della Namibia, fino ad arrivare sopra alla duna più alta del mondo. E uno dei motivi per cui ho scelto, tra l'altro, il deserto della Namibia è appunto perché quando mi trovavo in alto sulla punta era un po' più vicino a Pietro, no? E quindi ho trovato proprio uno dei motivi, forse un po' una suggestione, però una delle cose che mi ha affascinato è appunto questa duna incredibilmente alta, più di 300 metri, che per una duna è tanto. E successivamente, quindi sul picco della duna eravamo circa al chilometro 100, successivamente gli ultimi 4, e la cosa incredibile è che l'organizzazione di Tway sono stati veramente bravissimi a fare questo. Dovevo aggiungere 2 chilometri, quindi quando sono arrivato c'era il Adriano Zito che mi aspettava, il capo dell'organizzazione, con una bandiera, e mi ha detto: guarda, da questa bandiera fino a là dove vedi il traguardo è un chilometro, quindi tu vai, quando tu arriverai ci saranno probabilmente degli altri concorrenti, se per te va bene, che vogliono correre con te, perché la sera prima mi avevano dato la possibilità di raccontare un po' quella che è la mia storia. Ecco, questi concorrenti poi vorranno fare magari 2 chilometri con te, tornerai indietro a questa bandiera e poi ritornerai, no, al punto di arrivo, in modo tale da aggiungere questi 2 chilometri. Ed è stato incredibile, un'emozione unica. Perché? Perché quando sono arrivato tutti i concorrenti erano lì e mi aspettavano, e praticamente tutti hanno deciso di camminare. E allora ho detto: vabbè, dai, camminiamo un pochino. Quindi abbiamo camminato gli ultimi 2 chilometri ed è stato incredibile, perché loro, di loro spontanea volontà, hanno, diciamo così, coronato questo mio sogno di arrivare a 106, di ricordare appunto Pietro e di aiutare, come dicevamo prima, tanti altri bambini, perché questa, come tu sai, no, è collegata a un'iniziativa un po' più ampia di aiuto a una causa, diciamo così, benefica. Ecco, oggi continui a correre in qualche modo a fianco di Pietro e Pietro continua a correre con te. Con quale obiettivo? Sì, allora l'obiettivo che è partito e che è stato collegato a questa gara era, diciamo così, di raccogliere fondi per a favore di un progetto del dottor Lusch, che è un dirigente medico del reparto di oncologia pediatrica dell'Istituto Nazionale Tumore di Milano. Questo medico sta portando avanti una ricerca per la lotta contro il neuroblastoma. Che cos'è questo neuroblastoma? Non è la malattia che purtroppo mi ha portato via, almeno fisicamente, Pietro, ma è un'altra malattia che purtroppo affligge i bambini, tipicamente, che è il più frequente tumore solido in età pediatrica. Questo progetto di questo dottore è stato sposato da un'associazione, da una Onlus che si chiama appunto UNA Milano, UNA Milano, che appunto segue, è stata fondata da dei genitori che hanno avuto dei bimbi con dei problemi di tumore, e appunto il mio obiettivo è di raccogliere fondi per far sì di finanziare questa ricerca per sconfiggere questo altro male incredibile che sta affliggendo questi bambini. E allora, così Roberto e Pietro continuano a correre insieme con nuovi obiettivi, senza perdersi davvero e tenendosi per mano. Roberto Andreoli, quello che ti auguro da Olimpia è ancora tanti chilometri davanti a te per queste e per molte altre cause, insieme al tuo Pietro, e grazie a Roberto Andreoli per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a tutti voi e mi raccomando, mai abbattersi anche quando la vita sembra andarci contro. Assolutamente, abbiamo delle risorse incredibili che dobbiamo sfruttare e riusciamo veramente a tirarle fuori, ma l'importante è mai abbattersi. Grazie a tutti, veramente. Davvero grazie a Roberto Andreoli per essere stato nostro ospite. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia, la città dello sport. Olimpia, miti e verità dello sport. Storie di sport, certo, ma in cui lo sport diventa non l'obiettivo, ma il mezzo per raccontare, per raccontarsi, trovare il proprio modo per far risuonare il nostro barbarico yop sopra i tetti del mondo, direbbe il poeta. Sono queste le storie che stiamo vivendo insieme oggi a Olimpia. E allora direi che vale proprio la pena di spostarci subito in Toscana per festeggiare un bel settimo posto, quello conquistato il 20 novembre scorso da Fabio Ulivastri, 48 anni, fiorentino, e dal suo cavallo Indagato, questo è il nome del quadrupede, nel campionato regionale di endurance equestre. E allora, Fabio Ulivastri, complimenti e benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie di avermi chiamato e vi ringrazio da 400 feste fiorentine di Firenze. Allora Fabio, il settimo posto già di per sé è un buon piazzamento, ma credo che a darne l'esatto valore sia un altro particolare che è bene che a questo punto i nostri ascoltatori sappiano. Tu non sei solo un cavaliere, ma sei anche un non vedente. E la malattia che ti ha portato alla cecità ha preceduto, e non di poco se non sbaglio, la passione per l'equitazione, giusto? Diciamo, io inizio ad andare a cavallo dal 2009, nel 86 ho avuto il glaucoma, perché prima andavo in montagna a fare lo sci di discesa e mi avvicinai lì a Val di Fiemme dove c'era un maneggio. Ecco, ma perché proprio l'endurance, che impone gare di durata appunto di una trentina di chilometri in sella? Perché è un dressage, è una disciplina diversa e non è facile a fare l'endurance, abbiamo studiato il regolamento con l'insegnante e abbiamo visto se era possibile effettuarlo. Un non vedente a cavallo non è facile in endurance, ovviamente avendo il cavaliere guida, l'istruttore Francesca Gentile, e io con il cavallo indietro. La tecnologia ci offre questa tecnologia con i caschi, riesce trasmittente. Siamo sempre, diciamo, in collegamento e in massima sicurezza anche fra l'altro cavalieri. Hai toccato un punto chiave. Studiando il regolamento con Francesca Gentile, cavaliere guida e istruttrice federale specializzata in riabilitazione equestre, avete notato infatti che c'era la possibilità di gareggiare effettivamente coi normodotati. Diciamo, è un regolamento della partenza a coppie fino a 3 cavalli massimo. Noi siamo 2, il regolamento lo permette e non è, abbiamo le casche le radio e quello ci ha permesso di partire con i cavalieri normodotati. Fondamentale proprio il rapporto e il contributo di Francesca per realizzare tutto il progetto. La follia si è presa il 26 ottobre 2014 debuttando a Pisa nella gara di endurance del 2014, 26 ottobre. Studiando i regolamenti, come abbiamo detto, e lei chiedendo anche ai giudici se era fatto. E grazie alle date che questi caschi possono avere, se una cosa non era fattibile, abbiamo provato a fare la prima gara del 2014. Arrivando nei tempi previsti e acquisendo il brevetto di endurance come primo non vedente, ho il brevetto come normodotato. Al momento siamo l'unico non vedente al mondo che gareggia con normodotati, con il regolamento dei normodotati. Beh, davvero incredibile. Facevi riferimento prima, Fabio, alla radio che utilizzate, che è qualcosa di unico al mondo, vero? Questa apparecchiatura è anche questa unica al mondo, mi permette di allenarmi in autonomia in un campo 20x40. Questa è stata realizzata a Firenze, la realizzazione dal punto di vista economico è 42-42, un servizio taxi di Firenze che ha contribuito alla realizzazione. Apparecchiatura unica al mondo e permette in autonomia non vedente di allenarsi passo, trotto e galoppo in completa autonomia come un vedente. Questo ci hanno supportato i 42 di Firenze. Qui rischiamo però di dimenticarci di un altro protagonista non da poco, cioè il cavallo. Ecco Fabio, dici un po' che tipo è indagato? Vabbè, è già il nome indagato di Gallura. È un cavallo che ha corso con Trecciolino a paio di Siena e prove, e ha corso il paio di Ferrara e galoppo, e ha fatto anche gare di galoppo, anche un cavallo strettamente sportivo. L'ultima finale che abbiamo fatto a Follone il 20 di novembre, il percorso era talmente piccolo, ci siamo precisissimi e c'era da fare slalom per capirsi sinistra e destra. Prima che io lo facessi effettuare, io lo facevo il cavallo in automatico senza impartire l'ordine. È un cavallo sportivo, però sta agli ordini del cavaliere, non fa cose che non gli vengono dette di fare. Tra l'altro, nelle gare endurance, il rapporto con e la cura del cavallo sono fondamentali anche per definire il punteggio finale e quindi anche l'eventuale vittoria, vista l'importanza della visita veterinaria, vero? Il cavallo fa la visita prima il sabato della gara, della partenza il sabato, poi a rientro dopo 30 km, 20 minuti di stop deve fare, di raffreddamento, dopodiché va in visita veterinaria per vedere il battito cardiaco, più basso è il battito e più il punteggio è elevato. Diciamo, viene valutato in base anche alla disidratazione, parametri sia delle mucose, sia dei polmoni, parametri vitali, come una persona, un atleta normale. Noi scendiamo, l'atleta scende a cavallo, leviamo la sella, viene raffreddato e poi l'insegnante o io viene portato dal cancello veterinario, dove c'è il veterinario ufficiale che prende i parametri. Beh, davvero affascinante. Insomma, quella di Fabio, Francesca, indagato, è una grande sfida, anzi direi una gara per molti aspetti già vinta. Ma è ovvio che, insomma, non ci si vuole fermare proprio adesso sul più bello. Di sicuro, e lo dico io Fabio al tuo posto, uno sponsor farebbe davvero comodo per mettere un po' di biada, diciamo così, nel serbatoio di indagato. Insomma, dai, speriamo bene. Però ti chiedo ancora Fabio, quali sono ora i vostri prossimi obiettivi, i prossimi traguardi che vi state ponendo? Certo, sarebbe bello fare, delle gare anche, insomma, sarebbe un campionato italiano o arrivare a fare gare quasi non vedenti, sarebbe fattibilissimo. Purtroppo ancora un altro non vedente non c'è. Sarebbe bello farle, come insegnante non ha problema a guidare me con un altro cavallo non vedente e un altro cavallo guida, ovviamente. E allora l'augurio è che il 2017 porti uno sponsor e anche nuovi avversari, magari e soprattutto diversamente abili, non vedenti, perché davvero Fabio, Francesca e Indagato ci hanno ricordato una volta di più che tutto è davvero possibile. Fabio Olivastri, in bocca al lupo e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Benissimo, grazie a tutti voi e a voi, alla vostra Radio 24. Davvero significative le storie che oggi a Olimpia ci hanno raccontato Roberto Andreoli e Fabio Olivastri. Davvero nello sport come nella vita la lezione è non mollare mai, c'è sempre una possibilità, tutto è possibile, e anche queste storie e anche l'esistenza stessa di Olimpia come città dello sport ce lo ricorda ogni giorno. Un grazie a Gianmarco Ferronato in regia, vi ricordo che potete riascoltarci in podcast attraverso il sito internet di Radio 24, l'appuntamento è come sempre per domenica prossima, sempre alle 20:30. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.